Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo. Get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Noi non ci smentiamo mai, anche oggi abbiamo cominciato facendo una gaffe, mettendo la sigla finale, abbiate pazienza. Non ve ne andate. Dunque, questo è il coordinamento lesbiche romane, quella che state ascoltando è la 134esima trasmissione. Oggi in studio siamo Caterina, io sarei Caterina, cioè sono Caterina e Pina. L'argomento di oggi rientra nella nostra rubrica Donne e Storia, con la quale il coordinamento lesbiche romane opera da più di 7 anni ormai, una sorta di riscatto nei confronti delle donne che hanno segnato la storia. Hanno segnato la storia nonostante i pochi riconoscimenti ufficiali conferiti loro dagli storici di ogni tempo. Parleremo oggi di Amelia Earhart, Sophie Armand e Marie Marvigne. Ancora un poco di pazienza e scoprirete quali donne strepitose siano state costoro. Siamo sicure che rimarrete affascinate dalle loro vite, dalle loro imprese, almeno quanto noi. Buonasera a tutte, sono Pina e prima di mandare un breve stacco musicale che ci consentirà di predisporre le documentazioni che abbiamo preparato, volevo ricordare che il numero per inviare i vostri sms è il 338-4146-682. Volevo anche informarvi che tutti, e dico tutti, i vostri messaggi vengono costantemente riportati sul nostro sito, che vi ricordo è www.clrbp.it. Papà, e all'interno del nostro sito troverete la possibilità di inviarci anche delle email, qualora le cose che vorrete dirci, dovreste dirci, sono magari più lunghe, cioè non ci si riesce a scriverle tutte in un sms, oppure nel caso voleste ad esempio segnalarci un'iniziativa che vorreste pubblicizzare, oppure ce lo auguriamo tutte, nel caso voleste inviarci un vostro contributo. Allora, il nostro indirizzo di posta elettronica è contatti@clrbp.it. Adesso ascolteremo un brano musicale e, visto che stasera parleremo di donne che a modo loro hanno effettuato una sorta di rivoluzione, ci sembrava azzeccata la voce di Tracy Chapman con il brano Talking About a Revolution, chiacchierando di rivoluzione. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Rise up. take what's there. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87 e 900. Potete contattarci qui in radio, scusatemi, ma vedo che Caterina fa dei segnali, non riesco a capire che sì, cavolo perché voglia. Questo andava a letto dopo, Pina, questo era l'intermezzo dopo, c'è scritto. Vabbè, vai, con me, continua. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22 oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista del Buon Pastore ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono e anche fax con segreteria telefonica. Oppure ancora potete scriverci in forma cartacea a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Oppure tramite email contatti@clrbp.it. Vi ricordiamo anche che il nostro sito web è www.clrbp.it. E attraverso questo sito potete anche ascoltare la trasmissione in diretta cliccando proprio sull'icona dove è scritto in diretta. E vi ricordiamo anche il sito della radio che è www.ondarossa.info e anche attraverso questo sito potete ascoltare la nostra trasmissione in diretta. Non soltanto la nostra trasmissione, tutto il palinsesto di Radio Onda Rossa. Allora, eccoci di nuovo qui con voi e come detto nell'introduzione, oggi vi parleremo di tre donne che hanno in comune la passione del volo e non solo, come vedrete dopo. Inizieremo a parlarvi di due donne, una vissuta nei primi del Novecento, sto parlando di Amelia Earhart, e l'altra vissuta a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, che era Sophie Arman, le cui biografie abbiamo ripescato negli archivi delle nostre trasmissioni perché in realtà di loro avevamo già parlato. Dopo parleremo di Marie Marvigne. Dunque, inizierò col dirvi perché ci è venuto in mente di parlarvi proprio di Amelia e di Sophie. Perché l'altra sera, precisamente sabato 17 gennaio, in seconda serata, la televisione ha mandato in onda una sorta di filmato documentario sulla vita e sulle imprese di Charles Lindbergh, probabilmente perché ricorre il bicentenario dell'aviazione, cioè 1804-2004. Ricordo che Lindbergh fu il primo uomo ad effettuare un volo in solitaria da New York a Parigi. Io ho ascoltato e visto con interesse tutto il filmato che ricostruiva in forma anche abbastanza piacevole le imprese di quest'uomo e, forse troppo ottimista mi rendo conto, speravo che almeno alla fine si facesse un accenno ad Amelia o a Sophie, che visse addirittura prima di Lindbergh. Invece niente. Ecco perché abbiamo deciso di parlarne questa sera. Entrambe queste donne hanno, come dicevamo nell'introduzione, a che fare con il volo. Amelie nacque a Boston nel 1898 ed è quasi incredibile quanto le sue imprese risultino ancora oggi all'avanguardia. La Earhart cominciò a lavorare giovanissima facendo l'istitutrice, ma il suo sogno era quello di volare. Le lezioni di volo però costavano molto, allora Amelie cominciò un altro lavoro come centralinista notturna. Questa le consentì di pagarsi le lezioni di volo e nel 1920, a solo 22 anni, conseguì il brevetto di pilota. Per alcuni anni lavorò nei servizi postali, doveva fare con il suo aereo delle lunghe ripetitive trasvolate trasportando la corrispondenza. Ma neanche questo fu sufficiente per appagarla, lei aveva in mente un altro modo di volare. Decise di tentare una sfida maggiore, volò con un idrovolante Fokker da Terranova al Galles. Amelie, ribelle capigliatura bionda, pantaloni e giubbotto rosso d'aviatrice, questa affascinante giovane pilota appariva come il simbolo stesso dell'emancipazione femminile. Questa prova andò bene, ma forse il fatto di dover dividere questo successo con altri due piloti che l'avevano accompagnata le fece meditare di tentare qualcosa di ancora più grande. Quando le si prospettò l'opportunità di affettare un volo in solitaria da Harbor Grace in America fino al Galles, Amelia non se lo lasciò sfuggire. Con il suo Lockheed Vega colorato azzurro e oro, la Earhart volò per 14 ore e 56 minuti, raggiungendo la meta del suo viaggio. Era il 21 maggio 1932 e Amelia aveva 34 anni. Questa impresa, sia pure grandiosa, non le portò comunque la fama e la popolarità che ebbe ad esempio Lindbergh, come dicevo prima, che 5 anni prima, nel 1927, volò da solo da New York a Parigi sorvolando l'Atlantico. Why was I so... Já vos sabia, mas assim durante mês. All'epoca dell'impresa di Amelie, l'America era ancora in crisi per il crollo della borsa di Wall Street del 29 e la gente era ancora costretta a barcamenarsi tra le mille difficoltà economiche. La sua impresa fu vista come una grande vittoria da tutte quelle donne che erano impegnate politicamente per l'emancipazione e, rientrando dall'Inghilterra, fu da loro accolta come un'eroina. Diventava sempre più difficile trovare dei finanziamenti, ma Amelia voleva compiere un'impresa che l'avrebbe iscritta a pieno titolo nel libro d'oro dell'aviazione. Progettò di volare lungo la linea dell'Equatore, partendo dalla Florida, sorvolando il Brasile, l'Africa, l'Asia, l'Oceania, per arrivare ad Honolulu. Ma era il 1937 e nel mondo si cominciavano a sentire i primi sintomi di quello che sarebbe stato il conflitto mondiale. L'iniziativa prese comunque il via e Amelia partì dalla Florida fino in Brasile e, dopo una breve tappa fatta solo per il rifornimento, fino a Dakar in Africa. Il volo riprese fino alla Nuova Guinea per effettuare l'ultimo rifornimento che sarebbe servito per raggiungere, dopo un volo di 4.000 miglia, l'isola di Owland. Un peschereccio che navigava a 200 miglia dalla rotta che seguiva Amelia captò questo messaggio: abbiamo benzina solo per un'ora. Poi il silenzio. Per 7 settimane le navi statunitensi la cercarono nell'immenso specchio di mare del Pacifico dove il suo aereo era svanito. Inutilmente. Da questo momento in poi la storia si mescola con la fantasia. Cifuchi affermò che la IRART, incaricata dai servizi segreti americani, doveva perlustrare quella zona di mare per spiare la flotta giapponese. Altri dissero che venne catturata dai giapponesi e liberata solo alla fine della guerra. Alcuni dissero, per avvalorare la tesi del controspionaggio, che con Amélie viaggiava un altro pilota esperto di fotografia aerea. Altri ancora descrissero la sua storia in un film dal titolo Volo per la libertà. Beh, la vera fine di Amelia Earhart forse non la sapremo mai, però volevamo sottolineare una curiosa e per certi versi sorprendente coincidenza. Il 1937 è l'anno in cui Amelia scomparì, ma fu anche l'anno in cui nacque Valentina. Valentina Terescova diventò la prima astronauta a pilotare un vettore orbitale. Sembra quasi come se la battaglia di emancipazione delle donne, cominciata dalla tenace pilota americana Amelia, sia stata continuata dalla pioniera russa dell'astronautica Valentina. Singolare, non trovate? Adesso ascoltiamo insieme un brano che si intitola Only a Woman's Heart, solo il cuore delle donne, e la canta Eleanor McEvoy e Mary Black. Oh. Dunque, l'altra donna di cui vogliamo parlarvi l'abbiamo scelta perché si inquadra perfettamente all'interno dei profili di donne che con il loro modo di vivere, con le loro imprese, si possono considerare all'avanguardia, indipendentemente dal periodo storico in cui sono vissute. E anche tenendo presente che di loro spesso non è stato scritto abbastanza e quel poco che è stato riportato non rende loro giustizia. Allora, Marie-Madeleine Sophie Armand è nata in Francia nel 1778. E come avete ascoltato, questa donna ha un nome molto lungo, allora per facilitare voi nell'ascolto e sicuramente me nel ripeterlo, d'ora in poi la chiamerò soltanto Sophie. E chissà se anche i giornalisti dell'epoca che di lei scrivevano le imprese avevano il mio stesso problema con le lingue, o come al solito una donna quando è sposata perde completamente la sua identità personale. Beh, io opto per questa seconda motivazione. Fatto sta che per i cronisti dell'epoca Sophie Armand veniva identificata come Madame Blanchard. Dunque, cosa faceva di tanto speciale Sophie? Lei è stata la prima donna ad effettuare un volo tanto spettacolare quanto coraggioso su un mezzo assolutamente inusuale per l'epoca, la mongolfiera. Vi ricordo che stiamo parlando della fine del Settecento, primi dell'Ottocento. La storia di Sophie è veramente particolare, pensate che si trovò sposata prima ancora di nascere, avete capito bene? Infatti fu la merce di scambio che il suo futuro marito scelse per sdebitarsi con la madre di Sophie, la quale lo aveva assistito durante una sua lunga malattia. All'epoca di questa assistenza Jean-Pierre Blanchard aveva pressappoco 30 anni. Promise alla madre che quando sarebbe nata sua figlia, allo scoccare del suo 16° compleanno, l'avrebbe sposata. Dunque facciamo un attimo due conti. Se quando Blanchard ha fatto quella promessa aveva 30 anni circa, se è vero che tutte le gravidanze durano 9 mesi o poco meno, se è vero che la ragazza avrebbe dovuto compiere 16 anni prima di sposarsi, il matrimonio che è stato celebrato ha visto andare in sposa una bambina di 16 anni con un uomo di 47. Beh, non c'è male come saldo per un debito. Comunque, il signor Blanchard si definiva uno scienziato del volo e si guadagnava da vivere facendo delle esibizioni con la mongolfiera, a metà strada tra spettacolo e ricerca scientifica. Utilizzava la macchina diostatica dei fratelli Montgolfier, facendosi pagare i voli. Sophie cominciò da subito ad accompagnarlo, acquistando sempre maggiore dimestichezza con quel mezzo. Durante uno di questi voli Jean-Pierre si sentì male tanto da essere costretto ad una degenza lunga quasi un anno, che portò due conseguenze: la sua morte e il tracollo finanziario. La situazione nella quale si venne a trovare Sophie non era delle più facili, ma lei dimostrò tutta la sua forza riprendendo esattamente dal punto dove era stata costretta a fermarsi, quindi continuò la carriera del marito. Divenne ben presto l'aeronautica più cara al pubblico di tutti i tempi e si esibì in importanti occasioni. All'apice del suo successo, nel 1811, entrò a far parte delle cronache italiane, anche se suo malgrado, perché doveva effettuare un'ascensione partendo da Milano, ma nonostante fosse il mese di agosto, Sophie si trovò ad avere a che fare con dei forti venti ascensionali che, in poco meno di un'ora, le fecero attraversare l'Appennino. Il suo pallone stava puntando diretto verso il mare e chissà dove sarebbe arrivata. Fortunatamente Sophie aveva molta esperienza e tentò una repentina discesa con l'intento di gettare l'arpione per ancorarsi. Ci riuscì solo quando raggiunse la Valtrebbia in Liguria, precisamente a Montebruno, dove c'è una zona boscosa. Il suo arpione fece sì presa sulle fronde dei grandi alberi, ma lei fu costretta a passare lì sopra tutta la notte. Sombra di bongi. Questa notizia fu riportata dai cronisti dell'epoca, forse solo perché si verificò un vero e proprio scompiglio. Si verificò infatti un susseguirsi di soccorritori, di spacci vari tra le diverse autorità, lettere, infiniti messaggi tra prefetti, sindaci e comandanti. Ma la cosa più singolare fu che i cronisti si premurarono di riferire che quell'intrepida signora aveva preso il volo senza neanche indossare dei vestiti adeguati. Ma forse è proprio vero, certe cose si ripetono all'infinito. Scommetto che ognuna di voi saprebbe raccontare un episodio dove la stampa, cioè i giornalisti, non hanno fatto altro che assecondare quella che è la teoria dominante, perfettamente in sintonia con i peggiori stereotipi e assolutamente lontana da ciò che le donne vogliono, rivendicano e fanno. Io ringrazio Amelia e Sofì per essere state proprio così, e visto che Sofì si è fermata in Italia nell'estate del 1811, dedico a lei e a tutte le altre pioniere Summer Fly di Maura O'Connell. Ho sbagliato. Eccola. In another younger day, I could dream the time away in the universe inside my room. Was really mine from June till September. And if it wasn't really so, I was lucky not to know, and I was lucky not to wonder why. Because the summertime is all that I remember. Grazie, non abbiamo ricevuto neanche un trillino e neanche un messaggio. Io vi ricordo il numero tra poco. Vi ricordo chiaramente che siamo all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E siamo il coordinamento Lesbiche Romane, ospiti all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87 900. E potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale della Donna presso il Centro Femminista Separatista del Buon Pastore. E come vi ho detto poco fa, vi ricordo il numero del cellulare sul quale potete inviarci gli sms, è 338-4146-682. Io capisco che questa trasmissione parla di donne che amano il volo, ma volare è una cosa interessante, soprattutto le dobbiamo riscattare perché la storia le ha veramente cancellate, quindi fateci sapere che cosa ne pensate. Allora, potete anche scriverci in un secondo momento mandandoci un'email al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp, oppure potete lasciarci un messaggio nella segreteria telefonica al nostro numero del Centro Femminista Separatista, che è lo 06 6864201, oppure potete visitare il nostro sito, che è www.clrbp.it. Oppure visitare il sito della radio, che è www.ondarossa.info. E adesso invece io vi parlerò di Marie Marmion. Abbiamo avuto notizie di questa donna straordinaria dalla solita fonte per noi inesauribile di Rosanna Fiocchetto, alla quale non ci stancheremo mai di mandare i nostri ringraziamenti, perché ci ha messo in condizione poi di fare una ricerca su internet e di trovare un sacco di notizie intorno a questa donna che ha fatto delle imprese veramente straordinarie. Adesso cercherò di sintetizzarvi, però è stata una donna veramente eccezionale. Allora, Marie Marvin è nata il 20 febbraio del 1875 ad Aurillac, emigra in Lorena nel 1889 e dopo la morte della madre. A 15 anni fa la traversata Nancy-Coblenz in canoa. A 19 anni ottiene il brevetto di corridora, sì, avete capito bene, di pilota d'automobile. 2 anni più tardi farà il suo primo volo in mongolfiera, ottenendo il brevetto anche in questa specialità. Era una donna molto erudita, parlava correntemente 5 lingue, si interessava d'arte e all'epoca conosce anche Émile Friant, che è una pittrice francese che più tardi la immortalerà nelle sue tele. Diventa infermiera e poi nel corso della Prima Guerra Mondiale assistente in chirurgia. Fa anche la giornalista, sì, si occupa di aviazione e sport, tant'è che l'Associazione Aeronautica delle Donne di Los Angeles le assegna un premio letterario per lo scritto La fidanzata del pericolo e la mia traversata nel Mar del Nord in mongolfiera del 1948. Oltre a tutto ciò, Marie è anche una sportiva. Si avvicina a tutte le discipline possibili: box, lotta, football, salto, canoa, ciclismo, tennis, equitazione, golf, biliardo, karate, judo e ancora di più. Si diletta anche nella marcia e nelle scalate ed è stata la prima donna ad effettuare la scalata del Dente del Gigante. Partecipa alla prima traversata di Parigi in moto nel 1906. Si interessa anche di ciclismo e sci, ottenendo il primo premio di questa disciplina nel 1909 e nel 1916 crea la prima scuola civile di sci francese. Inventa lo sci metallico negli anni 20. Nel 1907 ottiene un diploma d'onore per tiro al fucile di guerra a 300 metri, ma in particolare si occupa di qualsiasi tipo di motore, di mare, terra o cielo. Unica donna al mondo, detentrice di 4 brevetti, aereo, mongolfiera, idrovolante ed elicottero. Si dilettava anche nella conduzione di dirigibili. Nel 1910 le assegnarono la prima coppa femmina per la più grande distanza percorsa da un'aviatrice. Ripeterà l'esperienza l'anno successivo e otterrà diversi premi in varie discipline aeronautiche. Piloterà quasi fino alla fine dei suoi giorni. E udite udite, nel 1960, ad 85 anni, otterrà il diploma di elicotterista. Nel 1961, quindi ad 86 anni, dopo aver fatto la Nancy Parigi in bicicletta, volerà su Parigi a bordo di un elicottero. Ed ancora Marie è una pioniera dell'aviazione sanitaria. Nel 1910 propone al governo francese la costruzione di un aereo ambulanza. La sua richiesta a quel tempo cade nel vuoto, ma la sua costanza viene premiata nell'imminenza della Prima Guerra Mondiale, quando si fabbricherà il primo aereo ambulanza francese, immortalato anche da Émile Friant, la sua amica pittrice, in un suo quadro. Ha dedicato a questo progetto più di 40 anni della sua vita, partecipando nei quattro continenti a più di 6.000 seminari e congressi sull'argomento, anche per reperire i fondi necessari. Per questo impegno, il 30 gennaio 1955 alla Sorbonne viene premiata dalla Federazione Nazionale dell'Aeronautica di Francia e d'Oltremare. Ella si è interessata, oltre agli studi di diritto e medicina, anche di canto, di disegno, di pittura, di scultura, psicologia ed altro. È stata una delle prime donne ad occuparsi di speleologia. Tra il 1934 e il 1935, nonostante i numerosi impegni e passioni, dirige ed interpreta due documentari con cui sollecita e stimola la nascita dell'Organizzazione Aeronautica Sanitaria Civile del Marocco, di cui ne è la fondatrice e primo presidente, e ottiene anche il premio alla pace del Marocco. Marie sarà detentrice in tutto di 34 medaglie e decorazioni internazionali. È stata la donna più decorata di Francia. Ha ottenuto anche la croce di guerra nella guerra del 14-18. Nonostante abbia continuato per tutto questo periodo ad occuparsi di ricerca nell'ambito dell'aviazione sanitaria, ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Legione d'Onore nel 1935, nonché di Cavaliere nell'Ordine della Salute Pubblica nel 1937. Ufficiale della Legione d'Onore nel 1949, riceve la Medaglia della Città di Nancy nel 1950. E mi fermo qui, per non confondervi e tediarvi oltre nella mera elencazione. Tanto avremo modo di tornare su questo argomento. Marie Mervyn morirà il 14 dicembre 1963 all'Axion. Viene descritta come la donna più incredibile dopo Giovanna d'Arco e fu ribattezzata la fidanzata del pericolo, la fiancée de danger, e la più grande sportiva del secolo. Nonostante tutto questo, il suo nome non è mai comparso, neanche una volta, nelle celebrazioni del bicentenario dell'aviazione. Verrebbe quasi da dire, ma Marie Mervyn chi? Eppure, nonostante queste donne abbiano fatto la storia, non se n'è mai parlato, o quasi, e sicuramente Marie Mervyn. Una cosa probabilmente nella sua lunga vita, di una cosa nella sua lunga vita non si è occupata. Considerato che tutte le cose che ha fatto erano per lei più interessanti e piacevoli, considerando anche i successi, forse l'unica cosa che non ha fatto, o quantomeno non ne abbiamo trovato traccia, ciò che all'epoca era richiesto alle donne, la moglie e la madre. Oddio, non è che oggi sia molto diverso, eh? Però tenete presente che stiamo parlando di più di 125 anni fa. Eppure nonostante ciò, Per noi Marie è stata una donna straordinaria e una donna che è riuscita ad esprimere con tanta forza l'essere proprio donna. Ed ora ascoltiamo insieme il duo Castleberry Dupré con un brano che ci sembra un omaggio alle donne di cui abbiamo parlato stasera e perché no, a tutte noi. Si tratta della canzone, e lo dico in italiano perché mi riesce molto difficile l'inglese, Le ultime pioniere. You control what I watch on the TV, for what I dance to at the bar. Get your hands into everything. Try to get me to look like what you are. Well, I may wear your fashions and work your 9 to 5. But I told you all along there are things I won't compromise. Now my producers, they didn't want me. They said I was too direct. I went home, asked myself, my friend Jay said, now, what did you expect? They want you to be a lie so you get on the radio. But keep on doing, keep on doing what you're doing. What you've already stolen the show. I said, I know. Ships on the Hudson and sailors open hand. And when he offered me passage, I said there's no promise left. There are people on the rooftop holding cameras and drinks. And I SOS from Miss Liberty, I said, let the old right, yes, I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, oh, meno male che vi ho ricordato il numero del telefono, perché mi veniva il sospetto che fossimo soltanto io e Pina questa sera ad ascoltare questa trasmissione. Fortunatamente sono arrivati due messaggi e neanche un trillino ci avete fatto. Ma è possibile che le musiche che abbiamo scelto proprio non vi sono piaciute per niente, per niente, per niente? Vediamo se catturiamo la vostra attenzione mandando la canzone di un gruppo a noi molto caro, quelle delle Kick la Luna, e indovinate un po' come si intitola, visto che oggi abbiamo parlato di donne, voi, aviazione, bicentenario. Si intitola Fly. Allora, io intanto ringrazio le donne che ci hanno mandato il messaggio e volevo fare una confidenza molto confidenziale alla donna che ha detto che è rimasta affascinata dalla storia di Marie Marvigne e che comunque preferiscono sentire storie di donne lesbiche. Io vi direi, magari leggete fra le righe, vi ricordate che è stata nominata una certa pittrice francese che lei ha conosciuto, però lasciamo così un po' di intuizioni a tutte, ok? Ci riprovo, ve lo ridò il numero, abbiamo ancora 5 minuti per stare insieme, mandateci un altro messaggio, dai. Il numero è 338-4146-682, pure facile da ricordare. Madonna, le ragazze della radio ci hanno dato una notizia eccezionale, che ci ha telefonato Giorgio da Tarquinia. Io ringrazio Giorgio soprattutto per i complimenti che ha fatto per la nostra trasmissione, ma sono contenta soprattutto che Radio Onda Rossa si sente fino a Tarquinia. Grande. Dicevo, io adesso voglio un attimo passare a leggervi i due messaggi che ci sono pervenuti, delle due donne che ci hanno scritto, che ci hanno fatto molto piacere, e sono gli unici due messaggi che oggi abbiamo ricevuto, a parte quello di Giorgio, che hanno preso le compagne dall'altra parte. Oggi niente trillini, probabilmente la musica non è piaciuta, vabbè, comunque non si può avere sempre tutto io. Dalla vita. Mi assumo tutta la responsabilità, le ho scelte io. No, non è questo il problema. Vabbè, comunque vi leggo i due messaggi. Allora, ciao a tutte, spero che state bene, l'ultima storia è davvero straordinaria, anche se preferiamo di più su donne lesbiche. Baci, non sappiamo chi. Non sappiamo il nome, usate qualche pseudonimo se non volete dire il nostro nome, però cioè, ma si farebbe piacere chiamarvi in qualche modo. Noi su Marie Marvino non possiamo dire nulla di così aperto, però presumiamo, e tutto fa presumere, che praticamente lei sia stata una lesbica. Ok, adesso vi leggo il secondo messaggio che ci è pervenuto, e wow, sono rimasta scioccata dalle capacità di questa donna, e mi rattrista sapere che debba far parte della lunga lista delle tante donne semi sconosciute con tutto quello che ha fatto. Che rabbia, per fortuna che ci siete voi a ricordarle. Grazie, e grazie anche a te per questo bellissimo messaggio, grazie anche all'altra donna semi sconosciuta anche lei, e Mrs. X su e su queste note noi sì. Vi lasciamo dandovi appuntamento a martedì prossimo, mi raccomando. Ciao, non ci abbandonate. Tutte. Speriamo che ci ascoltiate anche la settimana prossima, e il titolo di questa canzone la dice lunga su quello che vorremmo. Noi lo diciamo sempre, ci auguriamo che prima o poi ci arrivino contributi anche dalle donne che ci ascoltano, e il titolo di questa canzone è One of These Days, uno di questi giorni. Speriamo che uno di questi giorni insomma arrivi un contributo anche da parte vostra, insomma. Io pensavo che tu dicessi che speriamo che sia femmina, che potevo sempre dire. Tu lo sai che questa è una cosa che io mi auguro sempre. Comunque la cantante è Leanne Rimes, e sulle note di questa canzone vi mandiamo un abbraccio, un enorme un coordinamento lesbiche romane bacio. Vi saluta, vi abbraccia, e arrivederci ancora una volta. Una cosa importante, tenetevi libere per il Santa Valentina, chiaramente, no? Il 13 febbraio, aspettando Santa Valentina faremo un'iniziativa e poi ve la diremo più avanti. Comunque tenetevi libere, ok? Leanne Rimes, uno di questi giorni. Yeah. PD femminista autogestito presenta. Femminista autogestito. Liberamente. Liberamente. Sono le 10.